Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Rizzoli Emanuelli. Conserve ittiche da oltre 100 anni. Di Adriano Palazzolo. La storia che vi raccontiamo oggi inizia nel 1898, quando Luigi Rizzoli fonda a Torino la prima azienda di filettature e confezionamento di alici. La città, collocata sull'antica Via del Sale, vanta a quel tempo una tradizione secolare nella lavorazione dei prodotti ittici e proprio qui la prima generazione Rizzoli impara i segreti di questo mestiere. Le fondamenta di quella che è oggi la Rizzoli Emanuelli vengono però posate lontano da Torino, a Parma, dove dopo oltre 100 anni l'azienda ha ancora la sua sede principale e a svelarci come sono andate le cose è l'amministratore delegato Massimo Rizzoli. Soci fondatori è stato Emilio Zeffirino Rizzoli, che aveva sposato Antoniette Emanuelli, che era delle zone di Fiorenzuola, quindi qui vicino a Parma, e dalla loro unione di queste due famiglie è nata la ragione sociale, cioè Rizzoli e Emanuelli. In quegli anni praticamente era nato già il primo stabilimento dove veniva preso il pesce, veniva acquistato nella vicina Liguria, veniva salato, poi dopo una adeguata stagionatura iniziavano le fasi di filettatura e di scatolamento che avveniva nello stabilimento di Parma. Quindi era già comunque un'unità assolutamente a livello di tecnologia già abbastanza sviluppato per considerando l'epoca in cui è nata. Arriva la Prima Guerra Mondiale. L'azienda si ingegna per non chiudere. Le scatolette che contengono le acciughe vengono realizzate con la lamiera per le munizioni. La produzione è destinata all'esercito. Su alcune confezioni compare addirittura la scritta «Prodotte per il generale Cadorna». Dopo la guerra è la solidarietà collettiva che permette alla Rizzoli Emanuelli di ripartire. La prima cosa che hanno fatto è stato quello di contattare i vecchi clienti chiedendo un pagamento anticipato, quindi i clienti hanno pagato prima per avere il prodotto poi nei mesi di novembre, dicembre, e periodi diciamo in cui c'erano più allora l'acciuga era più meno destagionalizzata di oggi, cioè allora c'erano dei consumi che erano molto concentrati in determinati periodi dell'anno, tra cui il periodo novembre, dicembre, Natale, soprattutto in certe aree d'Italia come la Lombardia. E quindi c'è stato questo sforzo da parte della stessa clientela finanziare la prima campagna di pesca e di conseguenza la possibilità di avere poi la merce una volta salata, lavorata e scatolata. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli eredi Emanuelli lasciano per diversi motivi le proprie quote ai Rizzoli. L'azienda però, per continuità, mantiene il nome originario. Negli anni 50, a prendere il comando è Antonio Rizzoli, che catapulta l'impresa di famiglia nel futuro, con un'intuizione che si rivelerà corretta. In quegli anni inizia, diciamo, l'ascesa di quella che oggi definiamo grande distribuzione. Comunque l'arrivo di supermercati di dimensioni sicuramente molto, molto più grandi rispetto ai negozietti tradizionali. Quindi in quegli anni la visione di mio padre è stata una visione sicuramente avveniristica, perché ha creduto che il futuro sarebbe stato grande distribuzione e ha cominciato a seguire, a inserire i prodotti nei vari supermercati e se oggi siamo arrivati a questo livello qua sicuramente è stato grazie a una sua visione che non è stata comune in tanti imprenditori. Ci sono state marche italiane molto molto importanti che in quel momento lì hanno tra virgolette perso un po' il treno e quindi non hanno poi avuto la possibilità di sviluppare. Lo stabilimento realmente non aumenta la dimensione, che aumentiamo creando dei magazzini esterni, ma resta sempre la vecchia sede. Poi negli anni 80 c'è il, diciamo, la costruzione della sede, che poi è anche la sede attuale, che poi negli anni si è allargata, sviluppata e quant'altro, però nel passaggio 60-80 abbiamo cercato di gestire, hanno cercato di gestire con lo stabilimento che c'era, e comunque ha fatto un lavoro egregio, perché siamo arrivati qua grazie a loro. Intanto in azienda arriva una nuova generazione. Antonio Rizzoli viene affiancato dal figlio Massimo, voce narrante di questa storia. Il padre mette il figlio prima in magazzino e poi in area vendite, per farlo partire dal basso e fargli conoscere l'azienda in tutti i suoi aspetti. L'avvicendarsi delle due generazioni è legato a quello della ricetta segreta della salsa piccante per le alici, vero simbolo dell'azienda. La ricetta viene tramandata ancora ad oggi per via orale al primogenito maschio della famiglia. La ricetta è depositata presso una cassetta di sicurezza, ma viene tramandata per tradizione oralmente, quando si ritiene all'altezza proprio figlio ad avere questo tipo di conoscenza. Il mio caso è stato un caso triste, cioè nel senso, a prescindere dall'altezza, che poi probabilmente non so se ero all'altezza, comunque è stato un caso di forza maggiore, nel senso che purtroppo mio padre ha avuto un incidente di percorso importante e serio anni fa, quando io ero ancora molto giovane, quindi ci voleva qualcuno che al mattino facesse la salsa. E di conseguenza, visto che lui per ragioni di salute non poteva fare, sono stato insignito di questo sapere e ho cominciato a fare la salsa, perché un'altra cosa particolare è che la salsa viene fatta direttamente da noi, cioè l'accesso alla sala salse è un accesso che anche oggi in azienda posso avere io o una nostra, diciamo, operaia che da generazioni che lavora in azienda, se non nessuno ha accesso alla sala salsa, è proprio un segreto, nel vero senso della parola. La nascita dei primi discount porta con sé un momento di difficoltà per l'azienda. Sono gli anni 2000. Diventa più complicato in quel momento parlare di valore del marchio, tracciabilità, sostenibilità, in un mercato in buona parte interessato solo al prezzo più basso. Abbiamo passato momenti di grandissima difficoltà, proprio difficoltà relazionale anche con gli stessi clienti, con gli stessi buyer della grande distribuzione, che non davano più valore a quello che sulla quale noi avevamo costruito tutto, quindi sono stati anni complicati e difficili. Ma questa crisi è stata superata continuando a fare quello in cui credevamo, quindi abbiamo comunque continuato a produrre qualità con tantissime difficoltà di farla capire non tanto ai consumatori, ma proprio al nostro primo interlocutore che per noi era poi il cliente, cioè il compratore della grande distribuzione, cioè riuscire a fargli capire cos'era il nostro prodotto rispetto ad altri prodotti che magari avevano dei prezzi più bassi del nostro. E poi abbiamo cercato di verticalizzare il più possibile, quindi è nata, diciamo, un'operazione di verticalizzazione, quindi di avere tutte le fasi della produzione sotto controllo, cioè dalla moto peschereccio, scaffale, grande distribuzione, e quella difficoltà lì in specifico ci ha portato a una grandissima crescita di capacità aziendale, perché abbiamo dovuto affrontare temi che per noi erano nuovi, ma temi che poi ci hanno dato dei grandissimi vantaggi nel proseguire il percorso. Oggi Rizzoli Emanuelli ha stabilimenti in Croazia, Albania, Tunisia e Spagna. Nel sito produttivo italiano lavorano circa 40 persone, mentre all'estero ci sono 250 dipendenti. L'ultimo fatturato è stato chiuso a 32 milioni di euro, di cui l'85% prodotto in Italia. L'estero è infatti un mercato nuovo per l'azienda. Da circa 3-4 anni abbiamo cominciato a strutturare l'area estera in maniera, diciamo, professionale, quindi con all'inizio un mini staff, oggi un pochino più strutturato, e stiamo ottenendo dei risultati molto molto importanti. Siamo entrati in catene della grande distribuzione estera, tipo, non so, Albert Heijn in Olanda o altre catene molto prestigiose europee, e i prodotti stanno rispondendo molto molto bene anche all'estero. Oggi i mercati che per Rizzoli in ABC sono i più proficui e quelli che stanno sviluppando di più Sicuramente al primo posto c'è il mercato giapponese, quindi noi in Giappone abbiamo, diciamo, un marchio ben distribuito e sta sviluppando abbastanza bene. Poi tutto quello che è l'area europea sta crescendo molto. Accanto alla gamma tradizionale delle conserve ittiche di acciughe, alici, tonno e sgombro, l'azienda ha lanciato nel 2019 una linea di prodotti freschi per il banco frigo, segmento su cui si concentreranno i progetti per il futuro. A seguire il padre Massimo nell'impresa di famiglia è arrivato il figlio Francesco, in attesa del giorno in cui verrà tramandata quella famosa ricetta. Io con mio figlio sono stato meno capace di mio padre di lasciarlo sbagliare, che credo che a volte tendo un po' a proteggere i suoi errori, e questo è un limite mio, tant'è che molto spesso preferisco che oggi magari si occupino di mio figlio altre figure dirigenziali dell'azienda più capaci di me nel riuscire a dargli un'impostazione corretta. Oppure addirittura rischi poi di essere, io ad esempio in azienda sono molto rigido, nel senso che sono molto, molto presente e in tutte le fasi decisionali delle aree aziendali, e a volte tendi a essere proprio con tuo figlio magari troppo rigido di quello che saresti con una persona normale, con un normale collaboratore, quindi per questo che a volte tendo a tenerlo un po' a distanza per questo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.